Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Un estratto dallo spettacolo Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, ideazione Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, regia Marco Martinelli, con Ermanna Montanari, Roberto Magnani, Alice Protto, Massimiliano Rassu, incursione scenica Fagio, musica Luigi Ceccarelli, realizzazione suono Edison Studio, Roma. La Birmania? È distante? Bye to the only way, bye to the only way, bye to the only way, bye to the only way, bye to the only way, bye to the only way, bye to the only way, bye to the only way. Confessi, lei è comunista? No, io non sono... Lei, signora, è pagata dalla CIA? Dagli americani? Ci risulta che lei abbia coperto episodi di cannibalismo. Cannibalismo? Anarchici e fuori legge. Sovversivi e cospiratori. Lei è comunista? È pagata dalla CIA? Dai servizi segreti inglesi? Lei ha definito i birmani un popolo di robot mangiariso. Si rende conto dell'offesa? Dell'insulto alla nazione. Questo suo sridacchiare è un'offesa contro la patria. Lei ha sposato uno straniero, questo non può negarlo. Un professore di Oxford. Un cane imperialista. Un ebreo bolscevico al soldo di Mosca. Tra sposare uno straniero e prostituirsi non c'è differenza. Tra prostituirsi e tradire la nazione non c'è differenza. Lei è comunista? Ci hanno informato che lei ha avuto 4 mariti. Ah sì? 4 mariti? E tutti stranieri? Non faccia la spiritosa. Non ci provi neanche. Con noi non attacca. Come vuole essere chiamata? Nemica del popolo? Ci hanno informato. Nemica del popolo le va bene? Che quando in gioventù faceva tirocinio. O preferisce prostituta genocida? Alle Nazioni Unite a New York. Aveva degli amanti negri. Non rida! Non manchi di rispetto! Non ai negri, intende il collega, ma alla nazione! Insieme avete cospirato contro il popolo birmano, lo confessa? Dove si trova adesso suo marito? Risponda sì o no! Devo rispondere sì o no a dove si trova adesso mio marito? Sì! No! Risponda! Lei racconta storielle antigovernative? Si dice che lei abbia insultato il Buddha! Lei è stata fotografata in casa mentre guardava di nascosto un film con Jane Fonda. Ma non si vergogna! Quando è stata l'ultima volta che ha comprato benzina al mercato nero? Benzina? Risponda! Ma se non mi fate neppure uscire di casa? Non faccia la vittima! Non confonda le carte in tavola! Non giochi a fare la vittima! Lei è comunista! Signora, non le stiamo applicando elettrodi alla punta delle dita né alle orecchie! Né tantomeno sui genitali! Con lei non ci permetteremmo! Non le stiamo facendo né la motocicletta né l'elicottero! Sono solo domande! Si consideri fortunata! Quando è stata l'ultima volta che ha comprato benzina al mercato nero? È una semplice domanda! Una curiosità! Una domanda! Lei è stata vista ad uno spettacolo dei Mustache Brothers! I Mustache Brothers sono vietati, non lo sapeva? I Mustache Brothers sono un pessimo esempio di propaganda anti-birmana! I Mustache Brothers sono finti comici, nemici del popolo! I Mustache Brothers sono stati condannati a 7 anni di lavori forzati! Il Buddha! È comunista! Lei è pagata dalla CIA? Dagli americani? Non faccia con noi come le 3 scimmiette! Non vedo! Non sento! Non parlo! Vogliamo la verità! La verità è luce! La verità è amore! La verità è smetterla con le critiche! La verità è smetterla! La verità è la voce! La voce della nazione! La verità è! Non è! Non c'è! La verità oscura! Ha i denti rossi! La verità oscura! La verità è per! È contro! La verità mischia le carte! La verità è! Non è! Non c'è! Goebbels disse a Fritz Lang: vuole diventare il direttore della cinematografia tedesca? Fritz Lang rispose: ma io sono ebreo! E Goebbels? Chi è ebreo? Lo decidiamo noi! In ogni vita c'è un acquazzone. Che bello quando si riesce a prenderlo con umorismo. Tutto ebbe inizio quando la piccola Sue aveva soltanto 2 anni. Tutto ebbe inizio nel 1947, quando la piccola Sue aveva soltanto 2 anni. Tutto ebbe inizio quando Aung San, il padre di Sue, il padre della nazione, venne assassinato. Tutto ebbe inizio quando la piccola Sue era troppo piccola per ricordare. Tutto ha sempre inizio quando siamo troppo piccoli per ricordare. Quando il nostro ricordo, nella nebbia, sono i racconti degli altri. Quando io sono noi. E canzoni lontane sull'acqua. E carezze del vento. Tutto ebbe inizio quando Aung San, il padre di Sue, il padre della nazione, era un giovane contadino, testardo come un mulo, selvatico come un mulo. Non sopportava i raffinati di città, non sopportava i so tutto io e i ben educati, non sopportava gli inglesi venuti dall'altra parte del mondo a fare da padroni. A scuola il contadino studiava Mazzini e Garibaldi, studiava il Mahatma Gandhi, studiava come liberare il paese dai gentleman conquistatori. Studiava la loro lingua, la lingua degli oppressori. Tutto ebbe inizio quando Aung San, il padre di Sue, il padre della nazione, iniziò la resistenza insieme ai suoi 30 compagni. Diventò un comandante senza paura. Si alleò coi giapponesi per scacciare gli inglesi. Patatrac! La frittata era fatta, i nuovi padroni erano peggio dei vecchi. Allora tornò dagli inglesi per scacciare i giapponesi. E poi fu incaricato presidente. Era il 1947, il contadino aveva solo 30 anni. E tutti salutarono in lui lo statista che voleva democrazia e pluralismo. E fu assassinato una mattina di luglio insieme ai suoi ministri, quando la piccola Su aveva soltanto 2 anni. E la piccola Su si ritrovò senza padre. E la grande Birmania si ritrovò senza padre. Tutto ebbe inizio così, in un lago di sangue. E canzoni lontane sull'acqua. E carezze del vento. Mio padre era solito dire: spera nel meglio e preparati al peggio. La politica è sacrificio, è un dovere. Ti devi occupare di politica, se no sarà la politica a occuparsi di te. Diceva: sono diventato molto famoso tra il popolo. Mi dedicano poesie e canzoni. Affermano che il mio nome brillerà negli annali della storia del mondo. Ma io non sono ancora riuscito a guadagnarmi un posto neppure in quella della Birmania. Non sono un dio, né un mago, tanto meno un prestigiatore, e non posseggo poteri ultraterreni. Sono solo un uomo e sono irritabile. Lo sapete, sono un contadino irritabile. È la mia natura. Siamo una razza di campagna. In famiglia contiamo uno zio che si è infuriato contro i padroni inglesi, si è ribellato e gli hanno tagliato la testa. Forse avrò preso da lui. Talvolta mi monta una tale collera. Perdonatemi, dovete avere molta pazienza con me. Cercherò di correggermi. Non ne ha avuto il tempo. Da bambina avevo paura del buio, avevo paura dei Nat, gli spiriti malvagi che si nascondono nei tronchi degli alberi o dentro i vulcani. Avevo sentito delle storie legate agli antichi monarchi della Birmania, dell'astrologo di corte che suggeriva al re i sacrifici umani. centinaia e centinaia di persone sepolte vive sotto le principali entrate del palazzo reale. Che poi si sarebbero dovute trasformare in spiriti guardiani a difesa del palazzo. Il re era entusiasta della brillante idea del suo astrologo. Ma il popolo non era altrettanto desideroso di fornire la materia prima. I fortunati che dovevano morire. Nessuno si presentò volontario. Allora il re si vide costretto a usare la forza. I suoi soldati catturarono uomini, donne, vecchi, bambini e li seppellirono vivi. Non andò come aveva previsto l'astrologo. I sacrificati si trasformarono in Nat, fantasmi assetati di vendetta. Quelle storie mi terrorizzavano. Di notte non riuscivo a stare nel letto. Vagavo insonne per la casa, scrutando negli angoli tra i mobili. Avevo paura che i Nat mi assalissero. Il buio sembrava doversi riempire all'improvviso delle loro grida. I miei fratelli mi prendevano in giro per questa paura. Ora trovo strano che la gente mi definisca coraggiosa. A rapporto il fantasma del generale Newin. Cosa volete da me? Cosa pretendete? Io ho fatto quel che ho potuto. Ho inventato la via birmana al socialismo, che è una cosa meravigliosa. C'era una confusione sotto il cielo. Bisognava fare qualcosa. Io d'altronde non ero soltanto il capo dell'esercito. Era dal 49 che mi intendevo anche di politica. Da quando venne assassinato il padre di quella smorfiosa traditrice pagata dai governi stranieri. Non so davvero chi sia stato a farlo fuori, per carità. Aung San era un sognatore. Io lo conoscevo bene. Ero uno dei suoi 30 compagni. Non so davvero chi sia stato a premere il grilletto. Ci furono molte voci all'epoca, ma si sa. La gente fa presto a parlare, a inventarsi complotti. Sta di fatto che nel 62, tra la Cina di Mao le frontiere, i comunisti armati, i lavoratori in sciopero, gli studenti, i giornalisti, a far casino, insomma, bisognava fare qualcosa, dare una prospettiva al paese, e io gliel'ho data. Abbiamo semplificato. La semplificazione è una cosa meravigliosa. Basta con le forme curve, le idee complicate come la democrazia, che il nostro popolo non sa neanche che cos'è. Solo angoli retti, precisi, un unico partito, via i giornali, via la Costituzione, via i sindacati, chiuse le università, un generale solo al potere, io, repressione delle altre etnie, i cini, cacini, kein, vadano pure a nascondersi nella giungla, noi li scateniamo contro l'esercito. Perché se fossero solo due o tre, potreste anche provare a trovarci un accordo. Ma in Birmania ce ne sono 64 di etnie. Ma vi sembra che in uno stato moderno si possa tollerare? E insomma, per andare al sodo, la via birmana al socialismo ha portato delle cose meravigliose. Ho fatto costruire più pagode io che non tutti i re birmani dei secoli passati. Negli anni 70 il commercio dell'oppio è cresciuto 20 volte tanto. E con i narcotrafficanti del Triangolo d'Oro nessun problema. Un accordo lo si trova sempre, ci si guadagna tutti. Un accordo meraviglioso. Le banche in mano all'esercito, le foreste di tech in mano all'esercito, i giacimenti di pietre preziose in mano all'esercito. Per costruire ponti e autostrade abbiamo incendiato interi villaggi e deportato in massa i contadini ai lavori forzati. Non si fabbricava uno spillo senza che noi militari non ci guadagnassimo qualcosa. Uno spillo meraviglioso! E invece niente. C'è sempre qualcuno che non si accontenta, i soliti studenti che si ribellano e fanno casino e turbano l'ordine in un paese che è un paese meraviglioso. Che cosa dovevamo fare? Fin da subito hanno iniziato a rompere i coglioni, cosa dovevamo fare? Sparavamo sulla folla. Chi prendi, prendi, centinaia di morti, e quelli per un po' si calmavano. E quando la smorfiosa tornava in patria per la ricorrenza dei funerali del padre, io mi informavo, con discrezione, ma mi informavo. Senti, ragazzina, non è che per caso ti girano delle strane idee in testa? E lei, ma no, io sto ben bene all'estero e ci voglio restare. Mi piace la letteratura, mi piace l'Inghilterra e il Tibet del mio amato Michael. Ma lo sapete bene anche voi, fidati di tutti, ma non di una donna. Una donna è meno di una ranocchia. E insomma, con la via birmana al socialismo si arriva all'88 e io seguo le indicazioni della mia astrologa di fiducia. Che mi rivela essere io, il discendente del nono re della dinastia di Pagan. E allora, essendo io il nono re della dinastia di Pagan, ho fatto cambiare dall'oggi al domani tutte le banconote nazionali. Le ho messe tutte fuori commercio e le ho rimpiazzate con tagli da 45 e 90 chat. 45 e 90, cifre divisibili per 9, il numero magico del nono re della dinastia di Pagan. Ma non so se è stato quello a mandare a puttane l'intera economia. Sta di fatto che dal giorno alla notte il 75% delle banconote non ha avuto più alcun valore, riducendo in carta straccia i risparmi di milioni di lavoratori birmani. Sta di fatto che gli studenti hanno ricominciato ad agitarsi. Ci sono stati gli incidenti del Ponte Rosso, una strage. La polizia ha cominciato la carica e gli studenti si sono buttati nel lago. Molti di loro non sapevano nuotare, sono morti affogati. E va bene, ma che cosa dovevo fare? Ho dato le dimissioni. Avevo governato come un padre amorevole per 26 anni. Sono 26 se non conti i precedenti 13 in cui mi ero fatto le ossa come vice primo ministro. In tutto fanno 39. 40 anni di governo meraviglioso. E se a voi rompicoglioni non piacciono le cose meravigliose, io posso anche farmi da parte. Ma prego, volete la democrazia? Volete il referendum? Volete queste diavolerie dell'Occidente? Ma prego, che si facciano avanti i pretendenti al trono. Anche questa delle dimissioni me l'aveva consigliata la mia astrologa. Doveva essere una scusa per prendere tempo, per illudere e poi tornare più forte di prima. Invece a quel punto è tornata in patria la smorfiosa con le orchidee tra i capelli. È tornata con la scusa di accudire la madre gravemente malata. Altro che orchidea, un'orchessa che si era accoppiata a uno straniero. E va bene, ho annunciato, volete la democrazia, io mi ritiro. E così ho fatto, mi sono ritirato nella mia casa sul lago d'Ingia e da lì ho continuato a farmi sentire. Mica sono andato in pensione, ho continuato a dare ordini a destra e a manca, circondato dai miei astrologi e indovini. Tutta gente nuova appena assunta, si capisce. Perché quella vecchia che mi aveva consigliato di dimettermi, l'ho fatta ammazzare. E poi nel 2002 sono crepato anch'io. Ditemi voi, signori, che cosa potevo fare di diverso? Io cosa potevo fare di diverso? Madre, dopo la tua telefonata, se non lasciare subito Oxford, prendere il primo aereo e venire da te. Cosa potevo fare di diverso se non lasciare Michael, i miei figli, dir loro a presto, credendo che sarei tornata in Inghilterra entro la fine dell'anno e correre al tuo letto d'ospedale? Arrivata a Rangoon, city dello sciopero nazionale, indetto per l'8 agosto. In quella stanza d'ospedale passai mesi interi a guardare un popolo che si rivoltava, che attendeva il giorno stabilito per combattere. E alle 8:08 in punto dell'8/8/88 un grande corteo si mosse verso il centro della capitale. Sentii le grida e corsi alla finestra a guardare. Una folla immensa, un fiume di occhi, voci, orecchie sotto un sole feroce davanti al municipio di Rangoon. E anche nelle altre città erano scesi in piazza a milioni a chiedere libertà, libertà per tutti. Arriva l'esercito e circonda i manifestanti. Nessuno si muove, nessuno indietreggia come viene ordinato. Gli studenti sfidano i soldati, spara se hai il coraggio, e le ragazze rincarano la dose. Siete i nostri fratelli, non ci sparerete certo addosso. Sul prato, vicino al municipio, improvvisano una festa. Improvvisano canti e balli. Sembrano ubriachi, come se avessero già vinto. A mezzanotte arriva l'ordine e ha inizio il concerto. Pistole, fucili, mitragliatrici. E l'ospedale comincia a riempirsi di studenti feriti. La stanza dove mi trovo con mia madre diventa un rifugio improvvisato. Ma neanche l'ospedale è un luogo sicuro. Un gruppo di infermiere al piano di sotto cerca di fermare i militari che hanno appena fatto irruzione. Li scongiura di tenere le armi fuori da quel luogo di cura, di avere rispetto. I soldati rispondono ridendo. Lo vedete? Il fazzoletto rosso al collo. Lo vedete? E sparano su quel gruppo di donne, colpevoli solo di avere aperto bocca. Le massacrano sul posto. I colpi rimbombano dappertutto. Fanno tremare i muri. Un ragazzo tutto sanguinante entra nella stanza e mi afferra per un braccio. Presto, grida, presto, via di qua, dobbiamo scappare, che stanno arrivando. Prendo mia madre. A fatica. Scendiamo le scale e ci troviamo per strada. Ma dove andare? Dove nascondersi? Sotto un sole irreale, in quella luce senza misericordia. I soldati non si fermano, no, passeggiano, non corrono, no, passeggiano tranquilli alla ricerca dei bersagli, come se stessero facendo la spesa, con la freddezza di chi spara in un tiro a segno, di chi lo fa per sport. Un gruppo di bambini, ma da dove vengono quei bambini? Non ce li hanno i genitori, nessuno che li protegga. Si prendono per mano e urlano in mezzo alla strada, in mezzo al nulla. Sono tutti i bambini dimenticati di tutta la terra. La più piccola tra loro viene travolta da una camionetta e sbalzata lontano come un palloncino. I ritratti di mio padre, che i manifestanti imbracciano come scudi, sono gettati nella polvere calpestati. Gli studenti e le loro bandiere vengono caricati in massa sui cellulari della polizia, con il risultato che uno di questi diventa una bara luccicante. 40 ragazzi vi muoiono dentro soffocati. L'aria odora di sangue, odora di paura. Cadono a centinaia, a migliaia. Quanti sono a morire? Quanti? Quanti? Nessuno tiene il conto. E io non potevo stare a guardare. Sino che la Repubblica avrà molti che hanno bisogno di essere corrotti e pochi che hanno i mezzi di corrompere, la libertà non sarà che un nome. Ugo Foscolo, 1798. Dopo il massacro, Aung San Suu Kyi prende contatto con i capi del movimento che già da diversi giorni le avevano chiesto di impegnarsi nella lotta. Decidono che è venuto il momento, per lei, di parlare al popolo. Decidono il luogo del comizio, la lucente pagoda di Svedagon. Oro e marmo e rubini e giada, il luogo più importante e sacro della Birmania. Aung San Suu Kyi incontra in segreto uomini della giunta e assicura che non attaccherà pubblicamente i generali. Assicura che intende scongiurare altro sangue per le strade. E i generali accordano l'autorizzazione per il 26 agosto. Ma intanto, dappertutto, si distribuiscono volantini con Aung San Suu Kyi e il marito ritratti in pose sconce e ogni genere di insulti. Si arriva al giorno del comizio. I compagni si erano offerti di scriverle il testo, per via della sua inesperienza. Le avevano anche proposto di indossare un giubbotto antiproiettile, rubato ai militari durante gli scontri. Niente testo scritto, niente giubbotto antiproiettile. È la prima volta che parla in pubblico. Attorno a lei, 500.000 di persone. Si toglie i sandali ed entra, a piedi nudi, nel tempio, come ogni buon buddista birmano. Sotto quel sole, il pavimento di marmo della pagoda è incandescente. Ma più che i piedi, è la mia testa a scottare. Reverendi monaci e cittadini, lo scopo di questo comizio è di informare il mondo. Il mondo intero deve sapere che il nostro popolo desidera la democrazia. Sono stati gli studenti a preparare il terreno, sacrificando le loro vite. Sia reso onore al loro coraggio, alla loro sete di verità e giustizia. Ciò che conduce l'uomo a sfidare la paura è la visione di un mondo in cui verità e giustizia non siano parole vuote. Possono sembrarci concetti fuori moda, quando invece sono spesso gli unici baluardi contro la brutalità del potere. Vorrei spiegarvi oggi la mia parte nel movimento. È necessario, perché molti non conoscono la mia storia personale. È vero che sono vissuta all'estero. È vero che ho sposato uno straniero, ma queste circostanze non hanno interferito, né mai lo potranno fare, nella devozione che porto al mio paese. C'è chi ha detto che non so nulla della politica birmana. Il guaio è che ne so fin troppo. Mio padre si è prodigato per la Birmania senza mire personali. La politica delle mire personali mio padre non la desiderava, e anch'io voglio prendere le distanze da questo tipo di politica. Al tempo stesso non posso restare indifferente a ciò che sta accadendo oggi alla nostra nazione. Vedo con piacere che sono presenti dei militari al nostro raduno e che la nostra gente li ha omaggiati di corone di fiori. Ne sono felice. Mio padre era un generale, ma aveva dell'esercito un'idea completamente diversa da coloro che lo guidano in questo momento. Per lui l'esercito doveva limitarsi a proteggere il popolo, non certo a massacrarlo. In questi giorni ho sentito espressioni di vendetta per quello che è accaduto l'8 di agosto. È comprensibile. Molti hanno perso i loro cari, ma io credo che noi dobbiamo perdonare e dimenticare. La forza del perdono è molto più efficace di ogni spirito di vendetta. La democrazia non risolverà tutte le nostre difficoltà. Pensare di instaurare la democrazia oggi e domani tutto andrà bene è un grave errore. La democrazia è solo l'inizio, non è perfetta, ma si dà il caso che sia migliore di altri sistemi. In democrazia si ritiene sempre che la prima cosa è parlare, l'ultima ricorrere alla violenza. Parlamento è una parola antica che significa appunto parlare. Si parla dei problemi, si parla dei contrasti reciproci. È molto meglio litigare a parole che uccidersi. Non che mi piaccia gridare, ma è sempre meglio che spararsi. Tenendo fede a questa idea di democrazia, esprimerò il mio parere. Se sarete d'accordo, sostenetemi. In caso contrario, non posso farci nulla. Faccio solo ciò che ritengo giusto. Check my dad, really pop. Then we all cheer on my grandma. kanga be you than me to jada me we for Lord Sambiada na ku microphone the shot got it that do the land of my top body be red shoe your potential show funny lip shit Vedete quella scritta? Vi sembra minacciosa? Sapete cosa significa? Non vi agitate, ve lo spiego io. State Law Order Restoration Council, Consiglio di Stato per la restaurazione della legge e dell'ordine. Vi sentite rassicurati? Vi piace? L'ho inventata io. Non da solo, si intende, ma insomma, l'annuncio l'ho dato io. Generale Soe Man. Basta con la via birmana al socialismo. D'oggi slork, slork, slork. Suona bene. Coprifuoco notturno. Tribunali militari al posto di quelli civili. Arresto immediato per chi si trova a fare riunioni non autorizzate con più di 4 persone. Anche perché quella là, col discorso alla pagoda dorata, aveva infiammato gli animi. E a me è toccato di affrontare pochi giorni dopo un altro corteo di dimostranti e stenderne 1000 con i fucili automatici. Per fortuna che in Birmania la popolazione è numerosa. Quella là, che per strizzare l'occhio al popolo aveva parlato in un birmano impeccabile, aveva fondato assieme ai suoi 4 amichetti la Lega Nazionale per la Democrazia. Una provocazione! E aveva chiesto libere elezioni, doppia provocazione. Così mi sono inventato lo slork, per dare un giro di vite. Volete le elezioni? E facciamole queste elezioni, sarà una novità divertente. Sono ormai 30 anni che non si fanno in Birmania. E infatti dall'oggi al domani spuntano un sacco di partiti e partitini. Alcuni sono finti e li inventiamo noi per confondere gli elettori. Mentre quella là, nella sua villetta sul lago Dinja, organizza il quartier generale del movimento. Fa appena in tempo a seppellire la madre, che già si butta nella campagna elettorale. E poi dice di non avere mire personali. Va in giro per la Birmania, incontra le minoranze etniche terroriste al confine, tiene più di 1000 discorsi. Ma se non hai mire personali, come fai a tenere più di 1000 discorsi? Io, zitto zitto, la faccio seguire. E a Danubio avviene quel fatterello sul quale hanno ricamato in molti. La fila di soldati con le armi spianate e il capitano che intima quella là e ai suoi di fermarsi, che se ne apre il fuoco. E lei, e la balla è già diventata leggenda, non si ferma. Gli va incontro, il sorrisetto e l'orchidea tra i capelli. Il capitano che quasi gli prende un colpo apoplettico grida ai suoi sparate, sparate, sparate. I militari invece restano come imbambolati da quella geisha rifatta e non lo aprono il fuoco. Finché arriva un maggiore e ferma tutto. Ma ormai la frittata era fatta. Il popolo quel miracolo se lo raccontava la notte e lo ingigantiva, insomma, per qualcuno l'avevano addirittura ammazzata e poi era risorta. Io però ci ho preso gusto e dopo lo slork cambio anche nome al paese. Basta con la Birmania, da oggi ci chiameremo Myanmar. E già che ci sono, cambio anche nome alla capitale. Sostituisco Rangoon con Yangon, che in birmano significa fine dei pericoli. Un nome perfetto, ditemi voi, cosa potevo trovare di meglio per rendere l'idea? Per far capire a tutte quelle teste calde che era la loro fine, quella che finalmente stava arrivando. E dopo queste geniali trasformazioni linguistiche che mi costarono proteste in più di 3/4 della popolazione che non ci si riconosceva, passai all'azione. Facemmo irruzione nella villetta sul lago e feci arrestare tutti quelli che c'erano, tutti in galera. Di questi un bel po' sono morti di stenti e torture, sapete, i nostri con la motocicletta e l'elicottero non ci vanno giù leggeri. E quella là... Generale, mi permette almeno di spedire questa lettera a mio marito prima di portarmi in carcere? Si sbrighi, ma non aggiungo una parola sul suo arresto. Caro Michael, l'ultimo viaggio è stato estenuante. Su carri trainati da buoi e minuscole barche sotto il sole cocente. Ahimè, la tua Sue sta soffrendo le ingiurie del clima. Senza più un briciolo dell'accurata eleganza di un tempo, vaga per la campagna impiastricciata di fango, con i capelli arruffati, respirando polvere in un bagno di sudore. Occorreranno alcuni mesi nella grigia e umida Oxford per curare la mia carnagione. Ma a dispetto di tutte le difficoltà, sento che quel che sto facendo è giusto. Il popolo birmano merita qualcosa di meglio di questi disastri di inefficienza, corruzione, abuso di potere. Filo spinato attorno ai cancelli e arresti domiciliari. Come arresti domiciliari? Arresti domiciliari. Ma voi dovete portarmi in carcere con i miei compagni. Arresti domiciliari. Ha fatto una sceneggiata. Sciopero della fame per 20 giorni. Ha perso 6 kg. Si strappava le vesti, un'attricetta. Non è giusto, non potete dividermi dagli altri. Ho buttato la chiave nel lago. E ho detto, le volete ancora le elezioni? Ma prego, tanto con tutti i capetti in galera, le vinciamo noi. Le vinciamo noi! Le han vinte loro. Stravinte. Han preso l'80%. Han fatto festa per poco. Il tempo non è necessario per invalidare tutto e far tornare il paese all'ordine. Qualcuno dei loro eletti fugge e forma un ridicolo governo in esilio. Ci sono le solite proteste internazionali, le denunce di quegli scassaminchia di Amnesty International, ma poi il patatrac. Cade il muro di Berlino e opla, l'attenzione del mondo si sposta. Sì, la Birmania è lontana. È lontana. Anche per me sono stati gli ultimi fuochi. Alla fine del 91 ho dichiarato in televisione di essere il re John Sitta, il grande monarca del Medioevo. Re di vivo. No, non me l'aveva detto l'astrologo. Avevo avuto una rivelazione divina tutta mia, tutta personale. Avevo anche incontrato Gesù in Tibet. E mi ero messo a discutere con lui sul ruolo delle religioni nel mondo. Anche di questo incontro avevo parlato in televisione. E a quel punto i colleghi hanno sentenziato che era troppo. E mi hanno costretto alle dimissioni. Vatti a fidarti gli amici. Thank you. Non li fai più gli scioperi della fame? No, non servono. Avevo sperato che servissero a qualcosa. Invece i miei compagni sono ugualmente privati del cibo e del sonno. Ma il peggio sono certe torture, come la motocicletta e l'elicottero. Non sapete di cosa parlo? Ma che spiriti malvagi siete! La motocicletta consiste nello stare in piedi per ore, con le gambe piegate e le braccia tese in avanti. Per l'elicottero appendono il prigioniero al soffitto per i piedi e lo fanno roteare a lungo in aria a testa in giù. E poi c'è la passeggiata sulla spiaggia, dove si è costretti a strisciare nudi sul ventre in un terreno cosparso di vetri e aguzze. E poi c'è la cella coi topi e il tic-toc. Tic-toc. Ti battono in testa con un bastone, senza soste. Tic-toc. Non sono colpi molto forti, ma regolari, giorno e notte, continuamente. Loro si danno il cambio, tu non puoi, tu sei lì sotto. Tic-toc, tic-toc. E ti trasformi in un ammasso di carne sanguinolenta. Se riesci a dormire, sogni solo quello. Diventi matto se sopravvivi. Allora non ti facciamo più paura. No. Il Buddha insegna che voi non esistete e che il nostro destino è unicamente il frutto delle nostre azioni. Però ci parli! Siete di compagnia! Cosa scrivi? Sono discorsi di mio padre. Voglio appenderli alle pareti dell'atrio. Ma qui non entra nessuno! Per chi li scrivi? Per le guardie là fuori. Sono giovani, potrebbero essere istruttivi per loro, se avessero voglia di leggerli. Non provi odio nei loro confronti? Odio? Non riesco a provarlo neppure per i loro capi. E poi questi non sono che ragazzi. Alcuni sono anche gentili. Fai male, per questo sei così sciupata. L'odio è un sentimento corroborante. Odiare fortifica. Odio! Odio! Io mi sento già meglio. Come fai a non odiare? Sono sciupata perché mangio poco. Non posso permettermi pranzi normali. Non ho abbastanza soldi. E poi adesso ho cominciato a perdere anche i capelli. Non li leggeranno! E se li leggono, si faranno due risate! Ne siete sicuri? Il Mahatma Gandhi scrisse addirittura a Hitler con la speranza che diventasse sensibile alle sofferenze umane. A Hitler? A Hitler. E poi dicono che gli esseri umani sono provvisti di buon senso. Gli esseri umani sì, i santoni no. Lo sai che sei un bel po' presuntuosa, paragonarti a Gandhi. Io non mi sono paragonata a Gandhi. Ti sei paragonata a Hitler? Fermi? Cosa hai provato quando hai vinto il premio Nobel? Cosa siete, dei giornalisti? Confessa! Ti sei stufata di marcire qui dentro! Sono già passati sei anni! E se ti prende un infarto per via della denutrizione? Lo vuoi un consiglio? Manda tutti a quel paese! Comportati da donna pratica, moderna, che guarda al sodo! Manda tutti al diavolo! E tornateli in Inghilterra, da Michael! Non sei così vecchia! In Europa saresti contesa da tutti i salotti! Lo sai che i tuoi figli stanno diventando uomini e tu, madre smaturata, non sei accanto a loro? Ti hanno pure tagliato il telefono! Sì, è stato buffo. Avevo immaginato che avrebbero staccato i collegamenti dalla centrale telefonica. Invece sono venuti qui in casa con un paio di forbicioni. Hanno tagliato il cavo del telefono e si sono portati via l'apparecchio. Non aspettano altro i generali! Avanti, piccola, su, fai i tuoi doveri di brava madre e levati dai piedi, così che una volta fuori non potrai più rientrare in Birmania. Pardon. Nel Myanmar! Ah, Oxford, Oxford! Cosa c'è di meglio del clima grigio e umido di Oxford? Perché non accetti provviste dalle autorità? Perché ti costringi a fare la fame? Stamani eri così debole che quasi non ti alzavi dal letto! Ti sei già venduta parecchi mobili? E poi qualcuno ce la devi lasciare, se no noi dove andiamo a nasconderci? E i soldi del Nobel? Tutti offerti per la giusta causa? Hai disprezzato $1 milione! Hai voluto fare la santa martire? Si può essere più idioti? Un po' di buonsenso, via! Di ragionevolezza! Basta! State zitti! Voi non esistete. E se questa scena si chiudesse con le parole che ho detto allo zio Uchiman quando mi hanno liberata dagli arresti? Quali parole? Quale zio? Ehi, non facciamo scherzi! Devi restare sotto chiave! Altro che storie! Invece è andata proprio così, che quei lunghi sei anni sono finiti. Avrei potuto rivedere i miei figli, riabbracciare Michael, i miei compagni. Quando me l'hanno detto, sono scoppiata in lacrime così, all'improvviso. Piangevo e ridevo. Non me l'aspettavo. Non ero pronta. Le guardie dello Slork sono andate a casa dello zio Uchiman. Quando hanno bussato alla porta, lui ha pensato, ecco, mi mettono in carcere un'altra volta. Invece quando gli hanno detto che volevo vederlo, forse sarà gravemente malata, ha pensato lui. Starà per morire. Escortato dalle guardie, è arrivato a casa mia in pochi minuti, perché la casa dello zio Uchiman dista solo 2 chilometri da qui. Quando è arrivato, lo aspettavo sulla soglia e mi veniva da ridere. E gli ho chiesto, ma zio, cosa ti ha trattenuto che ci hai messo 6 anni per fare 2 chilometri? Thank you. detto i 10 doveri del re? Il sovrano va nominato dal consenso unanime del popolo. Non è un principio di democrazia? E questa antica tradizione buddista è illuminata da un pensiero ancora oggi rivoluzionario. Che il primo nemico da cui il re si deve guardare è lui stesso. Per questo deve osservare i 10 doveri, tra cui gentilezza, onestà, non violenza e sacrificio di sé. E deve osservare le 7 garanzie contro la decadenza, le 4 assistenze al popolo, le 8 virtù del governante, i 4 modi... Lo so cosa pensi, caro Geco. Pensi che queste sono solo sciocchezze, che la realtà è tutt'altra, che l'andazzo del mondo ci dimostra il contrario, che stiamo invecchiando qui dentro, che forse ci moriremo qui dentro, dimenticate da tutti, che alcuni dei nostri non ce l'hanno più fatta e sono passati dall'altra parte. Che anche vincere il Nobel è una barzelletta inutile. A cosa serve? Non serve a niente. Tante proteste, tante lacrime, tante condanne. E alla fine, pensi tu, nulla cambia. E invece ti sbagli. Il tuo cinismo immobile mi ricorda gli intellettuali da salotto che incontravo in Europa. Gente che giudica i propri simili sempre banali, che guarda il mondo dall'alto al basso, che non si sorprende mai di nulla, con le labbra sempre accartocciate in un'espressione di disgusto. Le senti? Le senti? Cantano. Alla pagoda di Svedagon. Perché mi venga ridata la libertà. Io riesco a sentirle. È il lago che mi restituisce le loro voci. I generali sono preoccupati di quel piccolo gruppo di ranocchie che va al tempio. E fanno bene a preoccuparsi, i generali, perché quelle donne non pregano solo per la mia liberazione, ma per la liberazione del mondo intero. I macellai pensano di averla vinta. Oh sì, i numeri sono dalla loro parte. Ma poi, quando tutto sembra solo silenzio, e orrore senza fine. Ecco che un piccolo gruppo di donne ricomincia a riunirsi, a portare fiori alle statue del Buddha dallo sguardo basso e a cantare. A dispetto di tutto, a dispetto dei massacri e dell'indifferenza, a dispetto di chi fa sul serio finta di voler fare qualcosa di serio, a dispetto di chi ci vuole sempre con la stessa faccia di robot mangiariso, quieti, accovacciati, schiacciati, appiattiti, a dispetto dell'angoscia che come una tenaglia ci chiude la gola ogni volta che sappiamo di un compagno caduto, a dispetto della stanchezza che ci fa vacillare, la tenebra c'è sempre stata. È la luce che è nuova. Cantano, caro il mio geco. Le senti? Cantano. Un estratto dallo spettacolo Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, ideazione Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, regia Marco Martinelli, con Ermanna Montanari, Roberto Magnani, Alice Protto, Massimiliano Rassu, incursione scenica Fagio, musica Luigi Ceccarelli, realizzazione suono Edison Studio, Roma. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Gaia Prea che ne ha curato riduzione, regia ed interpretazione, presentiamo lo spettacolo La Maîtresse a Roma, all'Off-Off Theater, dal 10 al 15 dicembre 2021. Ben trovata! Grazie, grazie e saluti a tutti quanti. Che racconto è? Il racconto in prima persona, perché sono delle memorie reali, insomma la storia è vera. La storia di Nell Kimball, questa donna che nacque nel 1854 in Illinois, come lei dice, in un potere di sasso.

con Edoardo Siravo in scena con lo spettacolo Prometeo di Eschilo a Roma, al Teatro Palladium, da giovedì 16 a domenica 19 dicembre 2021. Ben trovato! Grazie per questo invito. Sono molto felice di essere con voi. È un testo importante, importantissimo, di Eschilo, roba che sta nei precordi dell'umanità, alle nostre radici, quindi ogni tanto è bene immergersi in questo materiale. Abbiamo già fatto due tournée estive e la gente era proprio contenta. E chi non conoscesse il mito, lo raccontiamo? Prometeo è un dio fratello di Zeus. A un certo punto Zeus tenta un colpo di stato che gli riesce contro Crono, il loro padre, e prende il potere. Prometeo nel frattempo, siccome Zeus era dispotico, come può essere il potere certe volte, Zeus cerca anche di combattere gli esseri umani. Invece lui ama l'umanità, ama i viventi e gli dona la fiamma, il fuoco, che è una cosa importantissima per tutte le arti, ed è quindi l'uomo che dà all'umanità la bellezza, la saggezza, la cultura, tutte queste cose. Zeus si incazza, lo lega ad una roccia in cima a una montagna tremenda, la Scizia, e lì intanto incontra qualcuno che arriva a trovarlo, e prima arriva il dio Oceano che dice: smettila di fare queste storie, adeguati. Infatti Oceano si è adeguato, si è vestito come tutti i nuovi dei. Poi arriverà la Vergine Io, una delle fanciulle perseguitate da Zeus per motivi passionali e di sesso, e dopodiché alla fine arriva il poliziotto Hermes, il poliziotto di Zeus, e la cosa bellissima, io gli dico: siete di oggi è il vostro potere, ma state attenti che prima o poi vi toccherà a voi quello che è toccato a Crono e anche a me, insomma. Quindi questo è un mito che non solo ha a che fare con gli esseri umani, ma anche un po' ha a che fare con i nostri giorni. Come nasce questo spettacolo? L'estate della pandemia, io non avevo nessuna intenzione di stare fermo, e siccome il Prometeo ha solo 4 personaggi più il coro, noi abbiamo ridotto il coro a una persona sola, e lo spettacolo poi all'aperto è andato benissimo, come anche poi abbiamo fatto un'ulteriore tournée l'estate scorsa, e adesso veniamo a Roma. Purtroppo c'è di nuovo un po' di pandemia in giro, però. Che taglio avete dato allo spettacolo? Il regista è Patrick Rossi Castaldi, famoso soprattutto per aver fatto commedie brillanti, così, che invece si è trovato molto molto bene, tanto che poi quest'anno ha rifatto anche una Faedra di Racine con l'argomento classico. Il taglio è un taglio di semplicità, anche perché noi dobbiamo un po' in questo nostro teatro ripartire dai fondamentali. Molta gente o fanno cose assurde, strane, incomprensibili, o fanno cose cretine. Allora io credo che compito dei teatranti, quelli che un po' hanno a cuore questo mondo, sia quello di cominciare dai fondamentali, come se il calcio ormai, non so, giocassero tutte con le mani, dalle botte. Ecco, un po' il teatro italiano è diventato questo. Allora io credo che bisogna prendere tutti i guanti e dire: ragazzi, fermiamoci, ricominciamo dalle cose belle, dai testi belli, dai testi importanti, ce ne sono tanti, non li stravolgiamo, perché quelli erano molto più bravi di noi. Poi se esce fuori il genio tra un po' di anni, stravolgeranno quello che gli pare, però noi per ora cerchiamo di fare le cose come sono, in modo che la gente possa riapprezzare tutto questo materiale. Cosa hai apprezzato tu della vicenda mitologica? Questa sua lotta caparbia contro il potere, si incazza dall'inizio alla fine, con dei momenti anche suoi di dolcezza nei confronti degli esseri umani che sono rappresentati dal pubblico, a cui io rivolgo tutto il mio affetto che ho nei confronti degli esseri umani, e poi che ci sarà anche l'affetto che io ho nei confronti di questa personaggio curioso che a un certo punto arriva, che io, che è un po' interpretata tra le altre cose da mia figlia Silvia Siravo, e che tra altre cose è stata anche candidata per un premio molto prestigioso quest'estate proprio per questo spettacolo. Lui si rivolge a questa povera ragazza che è vittima della vendetta di Era, la moglie di Giove, e allora ci sono questi momenti anche di dolcezza, però tendenzialmente è uno incazzato contro il potere, e questo, devo dire, dopo tanto tempo mi fa piacere ricominciare un po' a dire queste cose, forse abbiamo un po' dimenticato di dire. Lo spettacolo Prometeo di Eschilo a Roma al Teatro Palladium dal 16 al 19 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento all'attore Edoardo. Sì, fammi dire soltanto una cosa ancora. Certo. Non ho citato gli altri attori, questo mi dispiacerebbe. Sono Oceano, fatto da Carlo Di Maio, il coro fatto da Gabriella Casali e Hermes fatto da Alessandro D'Ambrosi. E ho già detto che la regia è di Patrick Rossi Castaldi, i costumi di Annalisa Di Piero. A presto! A presto allora, grazie, grazie. Con Diego Labonia, direttore artistico della sesta edizione del Festival Roma Global Brightness dal 13 al 19 dicembre 2021. Ben trovato! Ciao a tutti, ciao Federico, agli ascoltatori, eccoci qua. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse. Roma Global Brightness è un festival che va avanti dal 2015, è un festival che presenta opere d'arte che hanno come materia principale la luce, quindi installazioni luminose o video installazioni, diciamo questi sono i due ambiti nel quale ci piace comunicare e coinvolgere gli artisti. Lavoriamo su un territorio che riguarda insomma sempre Roma, ma nel particolare Roma Est e ancora più nel particolare quest'anno siamo proprio dentro Sospignattara e zone limitrofe. Quindi il pubblico si aggira tra le vie e troverà sia in spazi al chiuso che spazi all'aperto le installazioni fruibili gratuitamente a tutti. Quanti sono gli appuntamenti e gli spazi? Quest'anno abbiamo cambiato un po' la forma, di solito noi facevamo il weekend o un weekend lungo, quindi venerdì, sabato e domenica, un giovedì, venerdì, sabato e domenica, quest'anno invece apriamo lunedì 13 con un'installazione che rimane aperta fino al 19 dicembre, con la possibilità anche di estenderla, ci piacerebbe, dipende un po' da come risponde il pubblico, dalle condizioni meteo, insomma tanti aspetti. Però questa prima settimana appunto iniziamo con Analemma di Yasushiro Chida, che è un artista giapponese, è la seconda volta che noi lo sfidiamo. Il martedì 14 dicembre invece per la prima volta facciamo uno spettacolo di teatro presso il Teatro Centrale Premestre, sempre in zona Pigneto, con una performance teatrale dove non ci sono attori ma le tre ragazze di Hunter Buster presentano Maze, Labirinto, spettacolo che si basa fondamentalmente sulle luci e su scenografie che vengono proiettate poi tramite le luci, quindi con delle ombre. E ci sono due appuntamenti che abbiamo diviso in due orari, uno alle 19 e uno alle 21. Poi venerdì, sabato e domenica, quindi dal 17 al 19, c'è il festival come l'abbiamo sempre concepito, quindi si aprono tutte le installazioni che si trovano appunto a Sospignattara, quindi c'è Daniele Spanò con Ultimo Movimento, Franco Rosati con la Landscape, Luca Monoceri con Zero, Motore Fisico che fanno un'altra installazione, video illuminazione, si chiama Quinta Parete, Overlap Project a True Story, Quiet Ensemble che presentano duetto, poi c'è il collettivo di RGB che presenta All in All, Simone Palma e Raffaele Settembre Inside Out e continua sempre pure quei giorni Yasuhiro Chida con Anna Lemma. Queste sono le installazioni. Poi ovviamente abbiamo anche un workshop e performance. Alberto Novello presenta una performance che farà sia sabato che domenica in orario definito, sabato 21.30 e domenica 18.30-21.30, ma tutte queste informazioni potete trovare sul programma del sito che è rgblifeset.com o anche su Facebook dove ci sono tutti gli eventi, con tutti gli appuntamenti, gli orari. Perché è tutto gratuito, però gli appuntamenti sono performativi o lo spettacolo e i workshop hanno necessità di prenotazione tramite Eventbrite, ma trovate tutte le informazioni sempre online. Come si è sviluppato nel corso degli anni? Più o meno sempre allo stesso modo, cioè quindi nelle prime quattro edizioni abbiamo avuto queste grandi passeggiate, facevamo una call che coinvolgeva praticamente artisti da tutto il mondo e avevamo una grossa difficoltà a farli entrare tutti, però poi riuscivamo bene o male a portare 25-28 installazioni e performance all'interno del festival. Negli ultimi due anni c'è stato un po' un cambio abbastanza epocale, almeno per noi. L'altro anno ovviamente abbiamo mantenuto sempre lo stesso spirito di call, solo che poi dopo ci siamo scontrati contro la zona rossa, il Covid, la pandemia e quindi quest'anno abbiamo cambiato completamente il format, cioè abbiamo scelto quattro location, una per ogni serata e gli artisti hanno virato la loro opera in video. è stato un doppio lavoro che abbiamo richiesto, però è stata un'esperienza molto interessante anche per noi, alla fine è stato uno stimolo, non è stato un qualcosa che ci ha bloccato. Quest'anno, vista l'esperienza dell'anno scorso, non abbiamo fatto una call perché ci sembrava assurdo coinvolgere degli artisti per poi fargli cambiare il progetto, quindi abbiamo lavorato tutto un po' all'ultimo momento perché dovevamo capire appunto a livello pandemico com'era la situazione. La situazione insomma sembra sotto controllo, fino a qualità, quindi da quel punto di vista abbiamo cominciato a organizzarlo veramente a metà ottobre, quindi con parecchio ritardo rispetto agli altri anni. Si è ridotto ovviamente la quantità di opere che presentiamo, perché la call permetteva anche per un certo tipo di costo, invece ha chiamato ovviamente, e anche visto la situazione, gli artisti comunque lavorano, non è un passatempo, e quindi giustamente sono essere entrati. E quindi abbiamo deciso appunto di restringere un po' il campo di azione, quindi è più facile la fruizione, la partita non è così estesa come gli altri anni, però abbiamo un alto livello di artisti potenti, molti sono artisti internazionali che vivono veramente l'Europa e il mondo, altri sono artisti romani che lavorano da tempo sul territorio e alcuni sono artisti italiani che vengono appunto da altre parti d'Italia. State curando un archivio fruibile, fotografico e video? Ci proviamo di volta in volta. Abbiamo avuto sempre delle grosse difficoltà nei primi anni, adesso un po' di meno, perché riuscire a fare delle foto e anche dei video che rendano bene l'idea dell'opera non è facile, perché fotografare delle opere luminose di notte non è assolutamente banale, ha necessità sia di materiale tecnico all'avanguardia, insomma, da quel punto di vista, ma poi serve anche il fotografo che le sappia fare. Quindi abbiamo fatto vari tentativi nel tempo, abbiamo avuto vari risultati. Penso che adesso quei ragazzi di Bad Toast che ci seguono da 2 anni abbiamo raggiunto un livello ottimale, insomma, e ci dobbiamo dedicare adesso. Penso che quest'anno proveremo a fare un archivio fatto bene. A parte sul sito ci sono ovviamente tutte l'archivio di tutte le edizioni, su Flickr ci sono già parecchie foto e parecchi video divisi per date, però lo dobbiamo sistemare a livello prodotto di fruizione, insomma, ci stiamo lavorando. Sesta edizione del Festival Roma Global Brightness dal 13 al 19 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Diego Labbogna. A presto! Grazie a voi e vi aspettiamo da lunedì nelle strade di Tor Pignattana. Con Francesco Lobrutto di Marte Live per presentare i 20 anni di Marte Live a Roma al Planet 14 e 15 dicembre 2021. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti! Ce ne parli? Sì, quest'anno sono 20 anni, quindi è un momento importante, cade in un periodo un po' complicato, però alla fine siamo riusciti a organizzare una bella cosa, saranno 2 giornate molto piene, molto intense, con tanti ospiti, avremo Capovilla che legge Majakovskij, Come un tigre, Guido Catalano, i Bowland, avremo anche Lorenzo Krugere con Nestor Fabbri dei No Braino che tornano insomma dalle parti nostre, visto che siamo stati poi noi a lanciarli diversi anni fa con Marte Live. Poi avremo anche Tony Clifton Circus. Faccio un reading anche io quest'anno. Faremo una cosa un po' speciale, una mostra con i manifesti di questi 20 anni e questo reading con una serie di performance anche di pittura, anche delle proiezioni di video e foto storiche. Quindi abbiamo pensato di raccontare la storia di Marte Live questi 20 anni attraverso un racconto, attraverso uno spettacolo che proverò a fare io. Poi abbiamo anche altri ospiti, artisti che ci hanno accompagnato in questi anni, che abbiamo scoperto e con cui collaboriamo ancora oggi, come Cristiano Quagliozzi alla pittura, Davide Cocozza, che sono artisti che stanno crescendo sempre di più. Proietteremo alcuni dei migliori cortometraggi degli ultimi 20 anni che abbiamo selezionato in questi anni. Tra i cortometraggi, ad esempio, ce n'era anche uno di un certo Matteo Rovere, che adesso è il produttore di Smetto Quando Voglio, ad esempio, il cui regista era Sidney Sibilla, che quell'anno arrivò terzo. Quindi sono tanti artisti che sono passati attraverso Marte Live e che poi hanno iniziato un percorso anche importante. Per esempio per la street art un artista che ha le prime armi ha lavorato con noi è stato Jorit. adesso è famoso un po' in tutto il mondo, ma anche la ragazza che ha vinto 2 anni fa nel 2019 Sterial, sempre per la street art, sta facendo un grande percorso negli ultimi 2 anni, ha iniziato con noi e anche lei sarà tra gli ospiti. Poi tantissima altra roba, tutti gli artisti in concorso come ogni anno, quindi sempre ogni sera avremo circa 150 artisti distribuiti nelle 16 sezioni che compongono poi Marte Live. Dovremmo avere anche qualche ospite europeo, perché dall'anno scorso Marte Live è diventato anche un festival europeo, quest'anno a giugno abbiamo fatto una prima serata a Vilnius, quindi adesso abbiamo un po' di partner europei che stanno lavorando con noi per fare Marte Live l'anno prossimo in tutta Europa. Per noi è una cosa molto bella, molto importante, segno che appunto il format funziona ancora oggi e che può diventare una cosa sempre più internazionale, con anche la possibilità di far circuitare gli artisti che poi selezioniamo in Italia in tutta Europa e allo stesso tempo portare qui degli artisti bravissimi che già abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Abbiamo visto delle cose bellissime durante la finale di Vilnius e lì appunto questi artisti hanno fatto anche una residenza artistica. Noi ne abbiamo fatta una qui, da poco ne faremo altre, insomma, Marte Live si evolve, diventa sempre più radicato in tutta Europa. Come sarà organizzato negli orari e negli spazi? Come al solito avviene quasi tutto in contemporanea, apriamo i cancelli alle ore 20. E poi si inizierà con i primi spettacoli di teatro, di letteratura e l'accesso alle mostre. E poi intorno alle 21 inizieranno i concerti dei big nella sala grande, gli emergenti nella sala emergenti e così via. Poi in tutte le sale ci saranno i vari spettacoli tutti in contemporanea. Nell'ingresso, come sempre, ci saranno anche alcuni spettacoli di circo. Insomma, il format è sempre lo stesso. Quindi la multidisciplinarietà e la contemporaneità degli spettacoli. Quindi lo spettatore attraversa le varie sale del Planet, che un tempo si chiamava Alpheus, e poi decide il suo percorso, in quale sala vivere l'emozione che più gli aggrada, diciamo così. Come sintetizzeresti il progetto Marte Live? Marte Live è una rete di contaminazioni artistiche, perché poi alla fine abbiamo sviluppato negli anni tantissimi progetti paralleli legati alle varie sezioni artistiche, quindi festival buskers, festival di street art, festival di arti visive, musicali, etichetta discografica, adesso la galleria online. Quindi questa rete che si dirama sempre di più e ci permette poi di sperimentare delle contaminazioni molto molto belle. Ad esempio qualche giorno fa abbiamo fatto una residenza artistica a San Martino al Cimino, nel Palazzo delle Panfili, ed è stata un'esperienza bellissima. Quindi non è la classica residenza artistica dove fai o solo teatro o solo danza o solo circo e così via, ma è stato creato in 3 giorni uno spettacolo dal nulla, ridefinendo uno spazio. Poi una delle nostre caratteristiche è anche questa, di andare nei posti e cambiare completamente tutto attraverso l'arte. Questo è. La festa per i 20 anni di Marte Live a Roma al Planet, 14 e 15 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Lobrutto. A presto! Grazie, grazie. Con Maria Stella Margozzi, direttrice dei Musei Statali di Roma, per presentare la seconda edizione di Mirabilia of Music, la musica apre i musei, a Roma dal 12 al 30 dicembre 2021. Ben trovata! Grazie, ben trovata anche a te. Di cosa si tratta? L'anno scorso abbiamo iniziato questa rassegna proprio di questi tempi, in quanto i musei erano ancora chiusi, lo scopo era quello di registrare questi eventi musicali e quindi di mandarli poi sui canali social perché si potesse ascoltare la musica e contestualmente vedere gli spazi museali ormai chiusi da mesi. Quest'anno è la prima volta che la rassegna è aperta al pubblico. Quindi ovviamente con tutto il rispetto delle norme anti-Covid, quindi su prenotazione. Iniziamo domenica 12 alle 17 con il Museo Boncompagni, Dimitri Greghi e Spinosa, sassofonista russo, quindi un'esibizione di jazz molto, molto adatta al luogo. Poi martedì 14 passiamo alla Galleria Spada, dove invece continuiamo ad avere l'esibizione di musica barocca, quest'anno con il tenore Riccardo Pisani, con Giovanni Bellini, che alla giada la chitarra barocca. Chiaramente è un concerto proprio pensato proprio per la Galleria Spada, che è questo museo quadreria seicentesca praticamente intatta dei tempi di Bernardino Spada, che era stato il suo proprietario, il proprietario del palazzo e anche un mecenate delle arti. Poi, ecco, domenica 19 dicembre alle 20, quindi in serale, al Museo Nazionale Castel Sant'Angelo avremo Mario Brunello al violoncello insieme a Roberto Loreggian, Francesco Galligioni, con un repertorio che parte dal 600 e arriva fino all'800, sempre in sintonia con quelli che sono gli ambienti di Castel Sant'Angelo. Poi martedì 21, sempre in serale, quindi dalle 20, all'Auditorium del Museo Nazionale di Strumenti Musicali a Santa Croce in Gerusalemme, ci sarà invece un piccolo concerto di Natale di musiche dell'inizio del Novecento. Poi faremo dunque domenica 26, mattina alle 12.30 al Santuario Etrusco della Pollo a Veio, sperando che non piova, Raffaele Costantino con la musica black, sempre di matrice jazz, insomma, afroamericana, e in uno spazio veramente suggestivo come quello del piccolo parco di Veio. Infine c'è il Pantheon il 30 dicembre alle 20. Il Pantheon aprirà a un pubblico, in quel caso, più folto, in quanto appunto c'è un po' più di capienza, con un progetto che è stato fatto proprio espressamente per il Pantheon, ispirato a questa antica Madonna icona bizantina della Vergine del Bambino, che è presente appunto nei locali della chiesa, che si chiama tradizionalmente Odigitria, e questo progetto è realizzato attraverso canti e danze a cura di Daniele Cipriani con l'Accademia Vocale, il Quartetto d'Archi e vari ballerini, quindi sarà un'esibizione molto completa di musica e danze. E quindi diciamo che per quest'anno riusciamo a promuovere i nostri luoghi e a dare al pubblico un contenuto, insomma, che vada appunto al di là del monumento, al di là delle opere d'arte figurativa, e che sempre di più nell'ottica del nostro progetto sui musei, quello che condivido insieme a tutti i direttori dei musei statali di Roma, di rendere un po' immersiva l'esperienza dei musei, cioè non solo appunto opere da vedere, ma anche opere da sentire, quindi cercando di avere a 360 gradi una dimensione artistica nei luoghi della cultura romani. Per tutti i dettagli, riferimenti web, sia sui siti ovviamente dei vari musei, su quello della Direzione Musei Statali di Roma, Beni Culturali, poi sui social, Facebook, Instagram, su YouTube andranno alcune delle registrazioni dei concerti. C'è anche a disposizione sul sito una bellissima locandina che abbiamo fatto, un bellissimo dépliant, è una locandina che riassume e illustra in modo particolareggiato tutte le esibizioni, tutti i concertisti e tutte le musiche che vengono eseguite. Seconda edizione di Mirabilia of Music, la musica apre i musei a Roma dal 12 al 30 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Maria Stella Margotti, direttrice dei Musei Statali di Roma. A presto! Grazie, a presto, grazie, ciao! Siamo all'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, raccontaci. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV, cantava qualcuno qualche tempo fa, e noi a dicembre del 2019 siamo andati a Ostia nella sala Paolo Poli, che era appena stata inaugurata, ed ecco qui che invece nel 2021 una mini rassegna dedicata proprio al grande artista Paolo Poli, che si chiama Ombrelli, nella sala appunto dedicata al grande maestro, andrà in scena il 14 e il 16, quindi questa sera e giovedì, in scena appunto nel teatro di Ostia, sala Paolo Poli. Ed è precisamente il 14, sarà Viva la Diva, Lala McCallan con Daniele Pacini e Stuart Lindsay, uno spettacolo musicale che vede la partecipazione di artisti alla Geo dell'Italia e l'Europa, così come il secondo, Migrazioni sonore, con Erma Pia Castriota, il 16 di dicembre. Her, grande violinista, cantautrice, che abbiamo apprezzato anche in TV ormai, effettivamente, cioè ce ne sta, si è vista un po' in giro, ed è appunto un momento di riflessione per affrontare un tema di cui si parla ancora poco e forse decisamente male, ovvero sia i diritti LGBTQ+, aggiungo, perché insomma nel comunicato c'era un plus di meno. Per ciò che riguarda invece Trend, questa settimana andremo al Teatro Belli, 16-19 dicembre, torna Francesco Montanari, attore insomma che abbiamo avuto modo di apprezzare anche in TV, anche al cinema, e però non ha mai abbandonato il teatro, perché dal 16 al 19 Playhouse, il testo di Martin Krimp, che con la collaborazione di Davide Sacco, Francesco Montanari dirige e interpreta. Un uomo e una donna, l'amore, la noia, la famiglia, il sesso, i battibecchi, il rancore. 13 quadri, Katrina e Simon esplorano piccoli momenti di quotidianità, affondano la lama nel loro rapporto, costruiscono e distruggono la relazione. Quindi questo è ciò che è nel testo di Playhouse di Martin Krimp, 16-19 dicembre, Teatro Belli. E ora andiamo un po' avanti, se io riesco a prendere la ce l'ho appena fatta, benissimo, perché questa settimana andremo sicuramente anche al Teatro Valle Franca Valeri, dove non si fanno spettacoli perché il Teatro Valle è chiuso, però nel foyer del teatro si organizzano delle mostre, e il Teatro di Roma, appunto, che ne cura la programmazione, anche se così non la possiamo granché chiamare, inaugura il 16 dicembre fino al 30 gennaio la mostra per Bernard Marie Coltès, un viaggio nell'universo teatrale del grande autore francese, tra parole e visioni, durante la giornata di apertura, che sarà il 16 dicembre. E alle ore 17 ci sarà un incontro con Giorgio Barberio Corsetti, Graziano Graziani, François Coltès e Anna Ashton Parnansini, e con le voci di Sara Putignano e Dario Caccuri, che appunto leggeranno delle parti di testo, e verrà proiettato il film La Nuit Perdue del 1973, scritto appunto e diretto da Bernard Marie Coltès. Quindi chi fosse appassionato del grande autore, questa è un'occasione da non perdere. Teatro Quarticciolo, arriva il Teatro delle Ariette, 30 anni di grano, autobiografia di un campo, spettacolo con cena, e come sempre nella tradizione delle Ariette, lo spettacolo appunto chiuderà con una cena, dal 16 al 19 dicembre al Teatro Quarticciolo. La compagnia questa volta affronta un tema legato alla campagna, alla vita contadina, un legame con la terra, con il grano che viene trasformato in pane. Questo il tema che sarà in scena dal 16 al 19 dicembre al Teatro Quarticciolo, con il Teatro delle Ariette. Alle Carrozzerie Notte invece, il 17-18 dicembre, Massimiliano Civica, regista ma che non disdegna ormai da un po' di tempo la scena per raccontare lui alcune vicende, alcune particolari occasioni, L'Angelo e la Mosca, commenti sul teatro dei grandi mistici, si interessa sulle storie dei Sufi, gli indovinelli dello Zen, le parabole di Gesù nei Vangeli apocrifi, serviranno per provare ad illustrare e spiegare aspetti, comportamenti e situazioni del mondo del teatro e dei suoi protagonisti. Una conferenza spettacolo, quella di Massimiliano Civica, in scena 17 e 18 dicembre al Teatro Carrozzerie Notte. Invece al Teatro Lo Spazio è il momento per andare a vedere un altro grande autore internazionale, Neil Labute, diretto da Marcello Cotugno, che non è la prima volta che, se non vado errato, si misura con la scrittura di Neil Labute, ed è un testo che si chiama Disorder, con in scena Claudio Botosso, attore del cinema che qualche anno fa abbiamo apprezzato in alcuni film italiani di successo, e Benedicta Buccoli, che probabilmente abbiamo conosciuto di più dalla televisione, appunto qualche anno fa, poi l'avevo un po' persa di scena, ma con il teatro ha continuato a lavorare in questi anni, ed eccoli lì, Teatro Lo Spazio, 16-19 dicembre per Disorder, una pièce divisa in due atti unici, Land of Death, la prima parte, e Helter Skelter, la seconda parte, dal titolo Elingo, ma non credo c'entri molto, però c'è un grande capolavoro dei Beatles, appunto, che si chiama Allo stesso modo, chissà se c'entrerà qualcosa, ma insomma, nel primo atto l'uomo riceve una telefonata sul cellulare alle 6 del mattino dal suo capo, che lo invita a colazione, invito a cui non può rinunciare, ma deve accompagnare la moglie in clinica ad abortire. Cosa accadrà? Durante la colazione l'uomo telefona alla moglie per dirle che ha cambiato idea ed è disposta a tenere il bambino, ma la donna non risponde. Così inizia il testo, poi vedremo come va avanti. Mentre Helter Skelter è una situazione buffa in cui il marito tenta in maniera ridicola di sottrarsi alle richieste della moglie di usare il suo cellulare, fingendo di averlo perso e dimenticato. Chissà, appunto, cosa nasconde l'uomo? Lo andremo a scoprire al Teatro Lo Spazio, 16-19 dicembre, per questo Disorder. Mentre invece al Teatro Fortezza Est, che ormai abbiamo inserito nel giro, diciamo, da molte settimane, perché insomma c'è un bel po' da vedere, 16-17-18 dicembre, Crib, la compagnia Crib, con la direzione artistica di Carolina Ciuti, questa casa regia di Roberto Di Maio, in scena c'è Beatrice Feli, presenta U con l'asterisco dopo. Lo spettacolo che ha avuto il premio della critica Direction Under 30 2018 al Teatro Sociale di Gualtieri, se ne va in scena a Roma e prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto in Canada nel 2016, con la nascita di Cyril Doughty, primo bambino al mondo ad essere identificato come U, cioè Undeterminated. Sì, credo di sì. Sesso indeterminato. Da questo avvenimento nasce una riflessione sull'indeterminatezza dell'identità e sul significato delle categorie a livello linguistico e culturale. Un tema molto importante, un tema fondamentale di questa nostra epoca contemporanea, e quindi da non perdere al Teatro Fortezza Est 16-18 dicembre. Mentre al Teatro Basilica andremo a vedere I Giganti della Montagna per voce sola di e con Valentina Banci questa sera e domani 14 e 15 dicembre, un testo incompiuto di Luigi Pirandello, I Giganti della Montagna, che è frutto, ci dice Valentina Banci, dei difficili mesi passati durante la pandemia, e che va a cercare un testo capace di far uscire fuori i pensieri, le parole, le emozioni vissute o represse durante questo periodo. Cosa poter dire adesso? Dove trovare le parole? Si torna a un classico, si torna a Pirandello, un classico incompiuto, per andare a vedere di che cosa poter parlare oggi. Per quanto riguarda invece Spazio Rossellini, ci sarà alle 19 del 18 dicembre un'opera lirica da camera, Il unico atto, la musica di Francesco Leineri, il libretto di Martina Tiberti, La bestia dentro, un'opera lirica, una storia di crescita, del desiderio e insoddisfazione, raccontata tramite l'esperienza della protagonista, la giovane Teresa, sullo sfondo una città nella quale non sorge più il sole. Quindi, per chi ama la lirica, soprattutto un'opera da camera, un po' particolare, in uno spazio non particolarmente adatto alla lirica probabilmente, però appunto è lì che sta il nostro interesse maggiore, cercare di capire come la lirica si possa fare anche in un teatro che non sia immenso e dedicato poi insomma proprio alla rappresentazione lirica. Mentre per quanto riguarda Puro Teatro, la rassegna intermittente che si svolge a Roma tra vari teatri, questa settimana 16-17 dicembre, Gin Gin, di cosa si parla quando si parla? È lo spettacolo che viene proposto al Teatro Centrale Preneste, è una commedia con dramma in perombra, la drammaturgia e la regia è di Rita Frongia, in scena Angela Antonini e Mary Bracalente, Angela Antonini insieme a Teatro Rebis è responsabile del progetto, appunto della rassegna Puro Teatro. Quindi in scena vedremo appunto i protagonisti della rassegna 16 e 17 dicembre, ore 21, Teatro Centrale Preneste, e Una mala parola e un malo pensiero hanno attecchito su uomini e donne che avremmo detto buoni, lo dicono i corpi, i volti, le chiacchiere, i silenzi. Dove prendiamo le parole che diciamo? Questa è la domanda. L'ingresso è gratuito, quindi attenzione, per andare a vederlo non bisogna pagare un biglietto, quindi affrettatevi, 16-17 dicembre, ore 21, Teatro Centrale Preneste. Ultimissimo ma non ultimo, in realtà, dopo aver detto che al Teatro di Roma, Dolores Ottochiave, Sic Sic, Carlo Secchi va avanti ancora fino al 23 dicembre, appunto al Teatro Argentina, quindi il Teatro di Roma si apre alla grande commedia eduardiana, l'avevamo già ricordato la scorsa settimana. Questa settimana è la settimana di Teatri di Vetro, la rassegna storica a Roma, festival curato da Roberta Nicolai, con di Triangolo Scaleno Teatro, insomma chiunque abbia partecipato a Roma negli ultimi 10 o 15 anni sa di che cosa sto parlando. Per ciò che riguarda i vari eventi, rimando al sito teatridivetro.it, e a me piace ricordare sicuramente che oggi alle ore 18 ci sarà un incontro su Josephine, andato in scena ieri sera, con Bartolini Baronio, mentre invece di certo da ricordare Naturans da Augusto Rodin di Alessandra Cristiani il 14 dicembre, questa sera alle 21.30 al Teatro India, sulla figura femminile nel silenzio scultoreo della nudità, mentre invece forse ancora qualcosina io ricorderei. Attenti alla ragazza che corre, mercoledì 19, 19.30 e 20, una Wunderkammer di Bartolini Baronio visitabile a piccoli gruppi, accoglie un archivio umano sonoro di interviste, canzoni, fatti di cronaca, quindi progetto piuttosto particolare. Ancora, forse è uno spettacolo a cui tengo particolarmente, il Mozart e Salieri di Pushkin Suite, che va a scavare all'interno appunto della storia descritta da Pushkin, ma che riguarda il rapporto tra Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart, e con il rapporto particolarmente complesso di cui forse ancora non abbiamo coscienza piena. Ma Gaetano Ventriglia, Silvia Garbugino, con la collaborazione di Attilio Scarpellini per la drammaturgia, mercoledì alle ore 20.30 lo andranno a fare al Teatro India e noi andremo assolutamente a vedere ancora sempre Teatro India, a seguire alle 21.30 ancora Alessandra Cristiani con Diario performativo, pratiche della trilogia. Desiderio nasce da qui, desiderio della trilogia è covato nel tempo di una formazione artistica di dare luce alla propria natura corporea, indagandola nei suoi punti più sfuggenti. Questo per ciò che riguarda la rassegna, ma insomma invito ad andare a vedere l'intero programma perché va avanti fino a domenica, ci sono un sacco di altre cose importanti e interessanti. Detto questo, un abbraccio a tutti e buon pomeriggio, buon teatro. Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.